buoni, anche se c'è chi me li impone. Scelgo io la condizione, l'azione, le decisioni, valutando le opinioni degli altri ma con distacco. Certo posseggo poco ma è farina del mio sacco, il peso delle catene che rallenta il mio passo, pesa molto meno delle vesti che indosso. E adesso tutto posso, ma soltanto se io scelgo, se leggo e reggo la mia testa con la libertà. Porto avanti i miei progetti con sudore e con fatica, per possedere la vita con piena capacità. Non avrei la dignità se ora fossi in automa, io combatto per l'indipendenza della mia persona, pronto ad uscire dal coma. La mia vita non l'annoio, non sono il burattino ma solo il burattinaio. Abbaio come fossi un cane quando spezzo il guinzaglio, verso l'uscita mi scaglio come un evaso dal carcere. Chi mi vuole in gabbia mi tira in faccia sabbia, fomenta la sua rabbia ma tanto non mi può prendere, non può decidere per me, anche se mi vorrebbe appese ai fili proprio come i burattini. Di me stesso voglio essere l'unico solo re, disegnando la mia vita come schizzi forattini. Tu leghi i tuoi padrini, la tua vita e la tua pista, come Francisco Coppola, mobile da regista. Taglio la ruggine più le sue catene, pensare libera appartiene al mio gene. Conosco bene il modo per liberarmi, affronterò le pene anche se dovrò tagliarmi. L'essere coscienza cerca indipendenza, libero di scegliere il padrone di sé. Tu avanza con prudenza in ogni circostanza, pensa con la testa, sei il padrone di te. Hey. Devi conoscerti, essere umile, disposto ad ascoltare, capire bene cosa fare, ad affrontare i limiti, le situazioni. Devi imparare a capire per poi esprimere le tue opinioni, amare la coscienza, sostenere l'uguaglianza. Devi conoscere, saper combattere la tua arroganza, capire le masse, amare insieme delle cose di cui dubiti, in situazioni storte che ci susseguono, che ci rincorrono. Non dare mai le spalle ai problemi che ci affliggono, pronto a lottare, pace e violenza. Scegli la via migliore, sostenuto dalla tua coerenza, la tua coscienza, sensazioni fisiche e mentali, basi morali, saper soffrire andando avanti, sostenendo i tuoi ideali, guardare il mondo nel suo insieme, nel complesso. Allora potrai dire di essere padrone di te stesso. Taglio la ruggine più le sue catene, pensare libera appartiene al mio gene. Conosco bene il modo per liberarmi, affronterò le pene anche se dovrò tagliarmi. L'essere coscienza cerca indipendenza, libero di scegliere il padrone di sé. Tu avanza con prudenza in ogni circostanza, pensa con la testa, sei il padrone di te. Ho smesso di perdere tempo anche perché ne ho poco, e resto nel dubbio d'attendere, dipende se farlo subito può essere l'unico modo, metodica e fuori luogo, allora niente. Ad ogni modo riformulo il mio orgoglio con lo scopo che un giorno sappia correggermi da solo, perché sarebbe il colmo arrendermi se ho la calma del mondo in tasca come un portafoglio. Sorriso in faccia non mi basta e mi bypassa come il vento, ma quella almeno un brivido lascia. È il bello che il mio che trovi a stento manca di approfondimento, perché dentro suona forte questa traccia. A volte resto basito con il trip di aver fallito, per non avere reagito e con l'ansia che punta il dito, e mi rinfaccio uno spartito. Se quel che vivo lo scrivo ma con lei non l'ho spartito, e che mi piaccia o meno, questa è la mia vita e sono proprietario in nero. Fisso non rinnego mai le scelte che ho preso, pronto per le critiche, pronto a non dargli peso. Bene sì, che mi piaccia o meno, questa è la mia vita e per essere sincero non servono attributi ma tributi dovuti, pagando anche contributi a chi manda per chi sbanda aiuti dal cielo. Taglio la ruggine più le sue catene, pensare libera appartiene al mio gene. Conosco bene il modo per liberarmi, affronterò le pene anche se dovrò tagliarmi. L'essere coscienza cerca indipendenza, libero di scegliere il padrone di sé. Tu avanza con prudenza in ogni circostanza, pensa con la testa, sei padrone di te. Hey, taglio la ruggine più le sue catene, pensare libera appartiene al mio gene. Conosco bene il modo per liberarmi, affronterò le pene anche se dovrò tagliarmi. L'essere coscienza cerca indipendenza, libero di scegliere il padrone di sé. Lo avanza con